Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. Uscendo dalla stanza, lì, nei granili, con la mia guida, cercavo nella mia mente confusa le ragioni con le quali avrei potuto abbandonare subito quel luogo e raggiungere il piazzale, la fermata del primo autobus o tram. Mi pareva che appena uscita avrei gridato e sarei corsa ad abbracciare le prime persone che avessi incontrate. Guardavo l'Allo Savio e ne ritraevo continuamente gli occhi. Non sapevo d'altra parte dove posarli. Alla luce delle poche lampade la vedevo meglio. Regina della casa dei morti, schiacciata nella figura, rigonfia, orrenda, parto a sua volta di creature profondamente tarate, rimaneva però in lei qualcosa di regale. La sicurezza con cui si muoveva e parlava e un'altra cosa anche, un lampo vivissimo in fondo agli occhietti di topo in cui era possibile ravvisare, insieme alla coscienza del male e della sua estensione, certo tutto umano piacere di tenergli fronte. Dietro quella deplorevole fronte esistevano delle speranze. Accortasi del mio impaccio nel camminare, si affrettò a sfiorare con una mano il mio gomito, ma senza toccarlo. Questo persistere di umiltà in un così continuo coraggio, questa dignità del tenersi distante da chi essa riteneva salvo, mi imposero una certa calma e mi dissi che non avevo il diritto di mostrarmi debole. Camminavamo lungo il corridoio del primo piano, verso le scale dei cavalli dirette al piano terra, che secondo la mia guida era la cosa più importante. In due parole, essa mi raccontò il perché dell'avversione di buona parte della popolazione femminile della casa. Era cominciata da quando l'Allo Savio aveva deciso di dedicarsi all'ambulatorio, in quanto si sospettasse che essa godesse le simpatie del direttore e traesse dalla sua attività vantaggi immediati, come medicine che avrebbe rivendute, pacchi dell'ECA e altro. «Da 6 mesi ho abbandonato la casa e tutto», mi confessò semplicemente. «Mi faccio la capa e scendo, perché questa non è una casa, signora, vedete? Questo è un luogo d'afflitti. Dove passate i muri si lamentano». Non erano i muri, certo. Era il vento che si insinuava tra le grandi porte, ma pareva proprio che la grande casa tremasse continuamente in modo impercettibile, come per una frana interna, un'angoscia, un dissolversi di tutta la materia quasi umana che la componeva. Ora mi apparivano i muri bagnati, corrotti, tutti incrostazioni e cupe stille. Incontrammo due bambini che salivano rincorrendosi, con dei gesti osceni. Una donna che scendeva dal secondo piano portando una bottiglia verde avvolta in un fazzoletto, come fosse un bambino, e comprimendosi con l'altra mano la guancia, da cui fuoriusciva una specie di bubbone di fungosità rossiccia, forse prodotta dall'umido. Sentimmo a un tratto cantare, con una voce affannata, stranissima, un inno sacro in cui si lodava la bontà di esistere. «Questo è il maestro», disse l'Allo Savio. «Un sant'uomo, una persona fine. Tiene l'asma da 25 anni e non può più lavorare. Ma quando si sente meglio, parla sempre di Dio». Credevo che la porta che spinse fosse quella dell'asmatico. Eravamo al piano terra, e l'oscurità e il silenzio erano leggermente più forti che al primo, rotti solo dal vago chiarore grigio che appariva lontano, a 300 metri, dove il corridoio terminava, e dalle impercettibili lampade che si susseguivano come mosche di fuoco attaccate al soffitto. Qua e là, porte, porte, porte, ma fatte di assi, di lamine di metallo, a volte anche di pezzi di cartone o di tendine scolorate. «C'è permesso? Favorite!» Strana stanza. Una donna nel fondo, enorme e forte, Vestita di nero, ritta dietro un tavolo, fumava una cicca. Sul tavolo c'erano una bottiglia vuota e un cucchiaio di legno. Alle spalle della donna, come un sipario, una finestra immensa, con delle tavole inchiodate e incrociate da pali, in modo da impedire il passaggio al benché minimo filo d'aria e di luce. C'era in questa stanza, e precisamente il 258B, un odore persistente di feci raccolte in vasi nascosti, lo stesso che riscoprimo in quasi tutti questi locali. Dovevano questi vasi trovarsi dietro i tramezzi fatti di carta da imballaggio o di brandelli di coperte, che dividevano l'ambiente a non più di un metro dal suolo in due o tre alloggi. La donna mi aveva guardato subito le mani, con un occhio nero, reso losco dallo strabismo, e visto che erano vuote, aveva mostrato un'aria delusa. Le dame dell'aristocrazia napoletana, mandando di tanto in tanto qualche pacco, lo straniero che giunge qui a mani vuote non può essere considerato che un nemico o un pazzo. Lo capì solo lentamente. «Questa signora», disse la Lo Savio, «è venuta a vedere come state. Vi può essere utile. Raccontate, raccontate, figlia mia». Quel cattivo sguardo strabico mi cadde ancora addosso, scendendomi nel collo come un liquido viscido. Poi, vincendo il peso e la stanchezza dell'enorme carne che l'ammantava, la De Angelis Maria disse con una voce lamentosa, sgradevole, come se fosse carica di schifo, ma anche annebbiata da un forte sonno: «Avutatava». A piede di un materasso disteso per terra c'erano delle croste di pane, e in mezzo a queste, muovendosi appena come polverosa lanugine, tre lunghi topi di chiavica rodevano il pane. La voce della donna era così normale nel suo stanco schifo, e la scena così tranquilla, e quei tre animali apparivano così sicuri di poter rodere lì quei tozzi di pane, che ebbi l'impressione di stare sognando, o perlomeno di stare contemplando un disegno di un'orrenda verità che mi aveva soggiogata al punto da farmi confondere una rappresentazione con la vita stessa. Sapevo che quegli animali sarebbero rientrati presto nel loro buco, come infatti dopo qualche momento fecero, ma ora tutta la stanza n'era ammorbata, e anche la donna in nero e la Lo Savio, io stessa, mi pareva che partecipassimo alla loro oscura natura. Usciva intanto, da dietro una tenda, aggiustandosi la cravatta, un giovanotto in abito da società, con un viso tutto pustole e la pelle sotto quelle macchie marrone di un pallido verde. Aveva in mano un violino e lo toccava appena con le sue vecchie dita. «Mio figlio, suonatore ambulante», lo presentò la madre. «Guadagnate?» «Dipende». «Avete altri figli?» disse alla madre. «Con questo, 7. Antonio, pulizza stivale. Giuseppe, facchino, questo che suona, uno malato mentale, gli altri disoccupati». «E vostro marito?» Non rispose. Mentre uscivamo, un giovane vestito quasi da donna, con uno scialle sulle spalle e un aspetto gracile, mi salutò inchinandosi fino a terra. «Oimà!» lo sentì che il diceva entrando in casa rivolto alla donna. «Ha già vista una casarella vicino a mare, ci stevo pure l'erba cedrina, a volesse affittà». Disse altre parole, confuse, poi ritornò sull'uscio facendo delle smorfie con aria pensierosa. La casa del maestro Cutolo era qualche metro più avanti, di fronte a quella del pazzo, e mi resi conto del perché quel brav'uomo cantava. A differenza delle altre stanze, qui entrava il sole. Un benefattore, che non aveva voluto dire il suo nome, ne aveva fatto regalo al maestro, servendosi di alcuni vetri che aveva fatto applicare all'altra finestra. Inondata così della pallida luce invernale, la grande stanza appariva nitida e in certo modo lieta, impressione che non andò neppure dopo smentita. Nel sole, seduti a terra, giocavano due bellissimi bambini, quasi nudi, con gli occhi neri, obliqui e un sorriso serio. Il signor Cutolo, che ci aperse la porta, era in mutande e si scusò molto per questo particolare. Lo avevamo sorpreso gradevolmente con la nostra visita e non aveva avuto il tempo di riordinarsi. Era un uomo ancora giovane, sui 40 anni, di media statura ma così fine da sembrare un adolescente. I suoi capelli erano biondi, gli occhi celesti, il viso scavato e inondato da un sorriso il cui fondo, come quello di un'acqua bassa, era una sconsolata tristezza. «Sono lieto», ci dichiarò subito, «perché il mio cuore è pieno della santa obbedienza ai voleri di Dio». «Oggi vi sentite meglio?» domandò la mia guida. «Tramenda v'abbiamo sentito cantare». «Grazie alla santa indulgenza di Dio verso un suo povero servo, sì», rispose con grazia, affannando. Guardavo quell'uomo e mi pareva che quel viso me ne ricordasse un altro, come una vecchia immagine velata da una nuova. Improvvisamente ritrovai l'uomo che era stato 20 anni prima, quando chi scrive abitava in un edificio sito nella zona portuale della Napoli d'allora, piena di traffici, di bandiere, di vele, di carichi e dell'allegria del denaro. Lui, il Cutolo, era fattorino nella compagnia di navigazione Garibaldi, al secondo piano. Correva sempre in chiesa, quando poteva, era di famiglia civile e aveva il diploma di ragioniere. «Come mai vi trovate qua?» «E durante la guerra casa mia fu distrutta. Mio padre morì, salute a voi. Mi rimase il carico della madre e di 2 sorelle. La santa volontà di Dio dispose che questo sacrificio non durasse a lungo. La madre se la chiamò Iddio, una sorella si maritò con un militare e ora sta a Avellino, un'altra vive a sezione avvocata presso una vedova. E io, grazie a Dio, ora ho la mia casetta, i miei figli, una buona moglie e non mi posso lamentare. L'ambulatorio mi passa le medicine». «Vostra moglie che fa?» «Cameriera presso una santa famiglia». Gli occhi scavati dalla fatica di respirare, mi guardava e sorrideva. «Mangio medicine, mangio. Talvolta mi vergogno di profittare così della bontà del dottor De Luca». Chiamò i bambini, che vennero lentamente, e se li teneva stretti ai fianchi, con un lampo d'indicibile orgoglio. Essi stavano nudi, e i loro bei volti, gli sguardi, erano sani e insieme tristi. Immaginai la loro madre, una forte contadina, una serva. «Per l'anno santo ne avrei voluto un altro. Mia moglie non ha obbedito», disse con dolce vanità. «Si è rifiutata allo spirito creatore che anima il mondo». I due fratelli fissavano ora me, ora lui, con un viso pensieroso, mordendosi le nere unghie. «Amo tanto i bambini. Qui ci sarebbe tanto da fare», proseguì con tristezza ansiosa il Cutolo, guardando verso la porta. «In questa casa ce ne saranno almeno 800 di questi birichini, ma non conoscono la santa obbedienza, purtroppo non sono educati. Talvolta io li chiamo, vorrei insegnare loro i principi della nostra santa religione, qualche canzoncina ideale, così, per raffinarli. Ma si rifiutano sempre». Mentre parlava, all'uscio rimasto aperto avevano fatto capolino alcune teste di individui dai 7 ai 10 anni. Una decina d'occhi attentissimi, quali rossi e mezzo chiusi, quali pieni di un'avidità animale, giravano in certe orbite incassate. Uno di essi stringeva qualcosa in mano e aveva un viso particolarmente forte, intelligente. A un tratto uno dei fratelli Cutolo si mise a urlare e a saltare come un pazzo, tenendosi un piede in mano. «Oimà! Oimà!» Aveva ricevuto una sassata e nello stesso tempo, così silenziosamente come erano apparse, quelle 4 o 5 figure disparvero. Il maestro, dopo un momento di esitazione, forse di vergogna, si mise a consolare suo figlio, esortandolo a perdonare quei birichini che non avevano avuto il vantaggio di una cristiana educazione. Uscita sulla porta, vidi quelli che si erano fermati nel buio 20 metri più in là, respirando affannosamente come il maestro e con negli occhi la stessa espressione di gioia ineffabile. Gli